per i suoni, tornando in diretta in studio Radio Città Fucino. La prima colazione in diretta porta all'ascolto, seppur di un concerto che è già vissuto al Torrione, per far conoscere autori che probabilmente non sarebbero passati all'interno di frequenze radiofoniche, perché come ben sapete la distribuzione di musica come altri suoni è qualcosa di molto particolare, ma è anche di grande qualità. Il concerto in piano solo di Sullivan Fortner è stato qualcosa di veramente coinvolgente, importante, orizzontale per quanto riguarda l'estensione e la ricerca pianistica, colto, nello stesso tempo fruibile, divertente. E quello che diventa un piano solo, a volte accademico, a volte così preso un pochettino con le pinze, in quanto sì, certo, una grande qualità è, beh, quello ci sta, ma riuscire anche ad avere intrattenimento è qualcosa che dà un valore aggiunto immenso per tutte e per tutti. Sullivan Fortner è un pianista, questo beh è ovvio, ed è un riconosciuto protagonista di una nouvelle vague, il pianoforte per il jazz e per tutti i tempi del jazz. Lo ascolteremo in diverse espressioni per quanto riguarda queste sonorità. Ha suonato con Roy Orgrove e poi ha lavorato con la scuola di Wynton Marsalis, ha suonato con John Scofield e ne ha certamente una capacità e una crescita, nonostante la giovane età, che lascia appunto un buon auspicio per quella che è la qualità musicale. Un Grammy, premio che ha trovato protagonista Sullivan Fortner, e per ascoltarlo nella maniera, insomma, più mettendo sotto il riflettore direttamente questo musicista, direi che un piano solo è indubbiamente qualcosa dal quale non ci si può nascondere, ecco, come bisogna assolutamente trovare le note in una formazione più estesa, in un solo si è quello, punto, fine. Ed è stato assolutamente un vassoio ricco, anzi ricchissimo di portate, che la prima impressione è uno spazio orizzontale che nelle epoche ha dato bella mostra di sé. Ha iniziato con una sonorità jazz tutt'altro che mainstream, anzi un modern jazz di impegno ma di grande classe, e appunto ce lo ascoltiamo in questo piccolo brano che sono riuscito a intercettare durante il concerto. Eccolo ovviamente l'entusiasmo del pubblico che ha avuto, oltre che la grande qualità acustica del Torrione, ha sostituito la ritmica in parecchi brani con il batter del piede al pavimento del Torrione stesso, l'ascolto di queste note che sono state veramente foriere di uno spazio quanto mai completo. La possibilità di conoscere Sullivan Fortner ha aggiunto al Bologna Jazz Festival Festival, anche una chiusura per quanto riguarda il 2023 di collaborazione con il Torrione di una rassegna nella rassegna con concerti. Ho avuto la possibilità di ascoltarli tutti, ma come per te sono tutti bellissimi, per te è sempre un grande entusiasmo. Allora, alcune cose da precisare: entusiasmo solo quando è meritato, e qui è indubbiamente meritato, questa è la prima. Seconda, ho la possibilità di scegliere, quindi questo non è poco. È chiaro che vado a vedere quello che secondo me ha poi motivo di essere recensito con entusiasmo, eh. Certo, sono tutti belli i concerti e la possibilità di ascoltare musica dal vivo, ma certo riesco a selezionare quelli che hanno secondo me un gusto più attinente al mio ascolto e alle mie orecchie, per poi riportarli e magari farli conoscere anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Ma bando queste impressioni personali, come l'interpretazione dell'ascolto di un piano solo o del perché di alcune selezioni, procediamo negli ascolti e anche aggiungiamo alcune note altrettanto importanti per il Bologna Jazz Festival, che sta terminando ed è stata una edizione veramente molto diversa per quanto riguarda la proposta, molto curiosa per quanto riguarda l'intrattenimento con il pubblico, forbita per i nomi Bill Frisell, Ron Carter, indubbiamente presenze fondamentali per quanto riguarda il teatro, cioè la grande arena e il grande palcoscenico, ma all'interno di un jazz vissuto nei club, certamente con Ferrara, col binario 69, con la cantina Bentivoglio, è stata un'edizione che lascia ben pensare per quella che è una proposta jazz nella nostra città. Quindi complimenti agli organizzatori, all'impegno che c'è stato per questa rassegna 2023. Ma incentriamoci su quest'ultimo concerto di collaborazione tra Bologna e Ferrara per questa annata. Siamo partiti con un jazz tutt'altro che mainstream, ma qualcosa di strutturato. È una sua composizione, quella piccola selezione, quel minutino di musica che vi ho fatto ascoltare, e direi di procedere invece nella ricerca nel tempo. Ecco, questo è un piano, un Dixieland molto più animato, se vogliamo, di intrattenimento, con tanto di qualcosa che è legato alla ritmica, ma allo stesso tempo con una raffinatezza che dà assolutamente un aspetto colto alla musica del pianista protagonista nell'ultimo sabato al Torrione. Thank you. Ecco, la curiosità nella musica che mi ha portato determinate emozioni, come ho detto, il primo pensiero l'aspetto con la definizione orizzontale, perché va a prendere, nonostante il discorso di tempo, qualcosa che comprende nella musica afroamericana e nel jazz veramente un panorama completo, e quindi immediatamente quando ascolti è inevitabile, ecco qui Bill Evans, ecco qui Thelonious Monk, ecco qui Oscar Peterson, ecco qui Count Basie, ecco, vengono in mente, no, grandissimi pilastri, e per quanto riguarda la musica anche nel contemporaneo, che sono stati di ispirazione. Possiamo sentirli indubbiamente e veramente in maniera totale nella musica del protagonista Alto Rione, Sullivan Forder, ma per quanto riguarda quello che è più importante è che in tutto questo che ho racchiuso vi è riconoscibile originalità. Certo, vi possono essere motivi di ispirazione, ma un'originalità incredibile, una sua scuola colta, la collaborazione con Wynton Marsalis si sente come la capacità di intrattenimento, il presentarsi, il continuare a studiare, lui veramente molto applicato, è un'abnegazione al piano che non lascia certo indietro quello che è il motivo di intrattenimento, che non deve essere confuso con facilità ma anche con grande qualità. Il regalo lo porta con il bis, ovviamente c'è stato grande entusiasmo, un bis richiesto a gran voce, e nel bis io non lo presento neanche questo bis, lo lascio scoprire a voi il brano qui interpretato, a proposito di interpretazioni in maniera appunto assolutamente originale. Che avevo una raccolta di racconti appunto trasversale allo stesso modo di uno scrittore che apprezzo tantissimo, John Cheever, edizione Racconti, Birra Scura e Cipolle Dolci. Beh, per chi al 333-180-9494 magari lo faccio riascoltare, lo tengo come base, mi scrive titolo e autore di questo brano, io appunto metto a disposizione Birra Scura e Cipolle Dolci, John Cheever, raccolta di Racconti. Chi è? Un aiutino è spesso presente al Breakfast Club, è stato riportato al successo dagli Incognito. collaborazione tra Bologna e Ferrara nell'ultima edizione del Bologna Jazz Festival ha chiuso così, grande qualità con un piano solo. Poi il giorno successivo è stato in Sala Borsa a Bologna, come vi ho detto, per queste due città. Il Bologna Jazz Festival in questa edizione ha portato note eterogenee e ricche di emozioni. Abbiamo seguito con il jazz live, con altri suoni abbiamo portato le recensioni al concerto e direi proprio che è più che meritato per chi può, insomma, ascoltare queste note e magari riuscire ad azzeccare il titolo e ha già intuito chi è stato l'autore della narrazione e scrittura musicale interpretata da Sullivan Fortner. Al 333-180-9494 la risposta che sto aspettando, magari lo ripropongo durante i magazine, lo tengo come base, ogni tanto tac lo metto per facilitarne l'ascolto. È stato riportato al successo dagli Incognito, spesso è presente al Breakfast Club ed è il concerto di sabato al Jazz Club di Ferrara. Un po' di musica, pubblicità e poi i magazine. A tra poco. Sick of a woman made. My child.